prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Questa settimana due notizie in evidenza, due notizie buone fortunatamente. Il progetto Rifugiato a Casa Mia, progetto della Caritas italiana, e lo sbarco anche a Padova, già con notevole successo, del mensile Scarpe de Tennis. Partiamo dal progetto Rifugiato a Casa Mia, ideato dalla Caritas italiana per l'accoglienza e l'integrazione, iniziativa che mette insieme rifugiati e famiglie che avranno e hanno l'opportunità di sperimentarsi nell'accoglienza. Non si tratta solamente di offrire un tetto e dei pasti, ma di accompagnare le persone accolte in casa a diventare autonome e inserirsi gradualmente nel contesto sociale. Contemporaneamente, la casa che accoglie diventa segno tangibile di integrazioni possibili e a misura di ogni persona. Il progetto, come già abbiamo raccontato altre volte, prevede l'accoglienza di singoli o dei nuclei familiari per 6 mesi, attivando nelle famiglie, nelle comunità, nei territori tutto quanto possa fare integrazione. Anche Caritas Padova aderisce al progetto Rifugiato a Casa Mia tramite 2 appartamenti messi a disposizione, uno dal vicariato di Monselice, uno da una famiglia della parrocchia di Campodarsego. Nei giorni scorsi a Roma c'è stato un incontro appunto con 106 operatori Caritas di 70 diocesi italiane per avviare questo progetto che diventa Protetto Rifugiato a Casa Mia, accoglienza diffusa e integrazione, un progetto appunto a cui anche la Caritas padovana ha deciso di aderire. La famiglia è al centro di questo progetto, appunto con la sua casa, stimolata a scommettere sul protagonismo dei rifugiati per consentire loro di raggiungere quel grado di autonomia ed emancipazione così difficile da realizzare nelle grandi strutture, nei centri di accoglienza creati prioritariamente per contenere e radunare. Caritas Italiana si occupa della formazione e dell'accompagnamento del progetto anche attraverso Comunitas Onlus, che è un consorzio di organismi promossi dalle Caritas diocesane che hanno messo a disposizione esperti del settore. Il progetto è monitorato da tutor nazionali, da operatori diocesani, avrà momenti di verifica per valutare l'andamento delle accoglienze attivate. Progetto innovativo che può diventare stile paradigma per le diocesi dopo la prima positiva sperimentazione di 3 anni fa con alcune realtà pilota e che ha già registrato un successo di partecipazione oltre ogni aspettativa. Del resto, come abbiamo detto in altre occasioni, le persone migranti, appunto persone che cercano protezione e rifugio, sono tante, sono sempre di più, il numero non diminuirà certamente nelle prossime settimane, nemmeno nei prossimi anni, quindi ben venga questa iniziativa della Caritas. Anche il Ministero ha il Ministero dell'Interno ovviamente, il sistema di prima accoglienza per i rifugiati, lo SPRAR, con alcuni dei comuni italiani, non tutti quelli che aderiscono, ma come sappiamo le difficoltà e le resistenze sono molte, in buona parte sono chiaramente comprensibili e sappiamo anche che i problemi ci sono stati, li abbiamo letti nelle cronache. Certamente questa è un'esperienza positiva, appunto, che a Padova trova già concretizzazione, a Monselice nel vicariato e a Campodarsego grazie ad una famiglia, ma speriamo che la cosa si possa allargare. È già allargata invece, ma probabilmente lo sarà ancora di più, l'esperienza del mensile Scarpe de Tennis. Chi conosce la musica degli anni 60 e 70 ovviamente avrà subito pensato alla famosa canzone di Enzo Iannacci, appunto, che parlava di una persona un po' disagiata, appunto portava solo le scarpe da tennis, scarpe un po' così più economiche, e avercele magari le scarpe, perché spesso le persone che arrivano nemmeno quelle hanno. Questa rivista è su internet, ma viene anche diffusa in formato cartaceo. Su internet la trovate a www.blogdetennis.it, senza doppie, così come si pronuncia in dialetto milanese. e anche Veneto, blogdetennis.it. A Padova questa rivista appunto è sbarcata, già 10 parrocchie l'hanno accolta ed è importante perché 3 persone senza fissa dimora con questa rivista hanno trovato lavoro. Scarpe de Tennis è stata creata per offrire alle persone in difficoltà, italiani o stranieri, non fa differenza, un'occasione di lavoro e reinserimento sociale. Sono proprio le persone senza dimora protagoniste di questa iniziativa. Sono collaboratori o venditori del giornale, in parte lo scrivono, lo diffondono, beneficiano delle opportunità del reinserimento. È un mensile di strada che dà voce appunto a queste persone che vivono in strada, ma la raccontano, ne raccontano i fenomeni, le vicende, ciò che produce emarginazione, esclusione sociale e povertà. L'iniziativa è già partita in diverse città italiane, in Veneto sono Verona, Vicenza, Venezia, ma poi anche Torino, Genova, Como, Rimini, Firenze, Napoli, Salerno e Catania. 150 persone che grazie a questa rivista riescono ad avere un piccolo reddito, fonte di guadagno onesto, persone che fino a ieri appunto magari conducevano una vita normale e all'improvviso per eventi dolorosi, per crisi economica, sono ritrovate ai margini. I padovani sono 3, Andrea Orlando, Franco Dal Corno e Narciso Rizzo, che dallo scorso mese di gennaio sono venditori ufficiali di questa rivista. Percepiscono, secondo un regolare contratto, 1 euro per ogni copia venduta e diventano una specie di liberi professionisti. 50 centesimi, quindi metà della quota, servono a pagare l'assicurazione e la messa in regola, il resto i costi di produzione e stampa della rivista. I venditori ogni mese girano il sabato e la domenica per le parrocchie che hanno aderito, appunto già una decina nel padovano, ma speriamo siano altre, e per diffondere il giornale al termine della messa. Tante notizie appunto si trovano, ovviamente non solo a livello locale, una rivista nazionale, ma che racconta storie di reinserimento, racconta anche la realtà che magari molti di noi non conoscono, vedono solo distrattamente passeggiando per le strade. blogdetennis.it, trovate appunto ulteriori notizie, blog che è corredato anche da un interessante notiziario radiofonico. Allora buon lavoro a tutti coloro, speriamo siano sempre di più, che possano inserirsi in questa distribuzione e in questa bella iniziativa editoriale. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.